Viaggiatori, avete dimostrato grande saggezza. Vi affidiamo la pietra di Corindone, l'unica in grado di placare la creatura guardiana della chiave della terra. Fatene buon uso. Non preoccupatevi. Sarà fatto.